nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Finalmente sabato, diranno moltissimi di voi, direi milioni di italiani, e anche molti ascoltano anche all'estero. Perché dicono così? Non tanto perché il sabato la gran parte della gente non lavora, soprattutto perché non ci sono più le mezze stagioni. Tutti i sabati dalle 14 alle 15 per ritrovarci insieme a commentare i fatti della settimana. Un'occasione per esprimere le vostre libere opinioni sulle tante cose che succedono, no? Nel corso di una settimana, dalla domenica fino al sabato successivo, quindi fino a oggi. Moltissime ovviamente le notizie anche questa settimana, e c'è sempre il numero verde a vostra disposizione se state viaggiando, se state stirando, se state cucinando, se state sonnecchiando, però con un orecchio attento alla radio. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire sui fatti di questi giorni. 800 24 00 24. Naturalmente tra poco ci sarà anche ad assistermi un opinionista estemporaneo, come sempre diverso, per dare il suo punto di vista sui fatti della settimana. Però come sempre anche vi voglio confermare che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Perché? Perché una volta si diceva, fino a ieri praticamente, l'altro ieri, scendere in campo, no? Scendere in politica, è sceso in politica. Invece Profumo, ex numero uno di Unicredit, che cosa ha detto? Solo ha rivelato che ci tiene anche lui, insomma, la politica lo diverte, gli piace, potrebbe essere una passione, questo dopo Montezemolo. E ha detto: in politica non si scende, si sale, perché è qualcosa di nobile e di alto. Quindi diciamo che forse in questo momento molti sono un po' perplessi, titubanti rispetto a un'affermazione di questo genere, non perché l'abbia fatta a Profumo, ma insomma che la politica sia una cosa alta. La politica in sé lo è effettivamente, poi diciamo che ultimamente un po' di disillusione si è avuta. Comunque sappiate, non si scende in politica, si sale. 800 24 00 24 e naturalmente adesso, signore e signori, vado a presentare l'opinionista estemporaneo di oggi. Tito Boeri. Tito, stai mangiando? Pronto? No, sono qua. Mi sembra avessi appoggiato la forchetta, mi sembra avessi sentito un rumore di questo tipo. Tito Boeri, grazie di essere in collegamento, perché non so se stavi andando in bicicletta, cosa stai facendo, mi hai detto insomma, che eri occupato oggi, perché Tito Boeri, sapete, è economista, è molto conosciuto. Gli economisti anche vanno in bicicletta e a volte comprendono e fanno delle analisi anche proprio pedalando, vero Tito? Beh, insomma, non è proprio il massimo riuscire a fare delle analisi mentre si va in salita, però si può anche provare. È uno sportivo, certamente Tito Boeri. Meglio che in discesa. Certamente meglio che... Ma si scende o si sale in politica, secondo te? Ma mi sembra che in questo momento in generale l'intera classe politica sia sotto pressione, e mi sembra che ci siano delle buone ragioni perché sia così, perché sta dando un esempio pessimo di se stessa. Credo che siamo tornati a livello di rapporto tra l'opinione pubblica e la classe politica quasi al periodo di Tangentopoli. Io credo che pochi italiani si sentano rappresentati dal Parlamento, i sondaggi ce lo dicono con chiarezza. Forse l'unica istituzione che regge è quella, è il Presidente della Repubblica in questo momento, che riesce a mantenere alti livelli di popolarità e di consenso. Un po' la magistratura, davvero in generale c'è un atteggiamento molto negativo degli italiani nei confronti della classe politica, di chi ci rappresenta. Quindi praticamente in questo momento si scende. Tito Boeri, dicevo, economista, docente dell'Università Bocconi, direttore fondatore della Voce.info, un sito online sul quale potete informarvi appunto sull'economia, sulla finanza, e magari anche in modo un po' più, diciamo, propedeutico. Tito, perché ci sarebbero, vorrei approfittare di te, tenerti stretto, incatenarti per chiederti una serie di cose di economia, di finanza, di cose che non si comprendono, ma dobbiamo stare sui fatti della settimana. Quindi magari se capita in mezzo qualche argomento, per esempio, no? Volentieri. Ecco, Tito, tu hai capito qualcosa della manovra? Qualcosa l'hai capita? Questo è difficile davvero orientarsi, perché qui il problema è che non c'è una manovra ancora. L'ultima cosa che è stata prodotta è sono degli interventi che molto difficilmente riescono a raggiungere gli obiettivi che si sono dati, tant'è che non c'è ancora una relazione tecnica agli emendamenti che confermi il fatto che verranno rispettati i saldi e gli obiettivi previsti. Sono una serie di misure sulla lotta all'evasione, sono delle misure che hanno un gettito, dell'effetto incerto. Di prassi normalmente si tende a non inserire queste misure, nel senso di dare a queste misure un peso importante nell'ambito di una manovra, perché si preferisce essere insomma molto prudenti, e poi se arrivano delle entrate grazie a queste misure, tanto meglio. Invece il governo ha scelto di dire che queste misure porteranno fino a 6 miliardi nel giro di 2 anni. Io trovo che quando poi si faranno i conti davvero, temo che si scoprirà che saranno davvero molto meno. E in un momento davvero delicato come quello in cui ci troviamo, non è una cosa da farsi, perché rischia di esporci ancora di più ad attacchi contro i nostri titoli di Stato, una crisi di credibilità che ormai ci trasciniamo da diverse. Ecco, poi magari Tito, se c'è tempo, ci spieghi anche in che modo, perché uno immagina che ci sia qualche cecchino nascosto dietro un palazzo, un grattacielo dietro una duna, a sparare sui nostri titoli, sulla nostra finanza. Cosa significa, no? Mettere sotto tiro, attaccare, speculare, eccetera. Magari dopo, se c'è tempo. Però intanto volevo ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori, me lo faccio sempre, una specie di piccolo resumé dei fatti della settimana. Poi naturalmente tutti sono liberi di tirarne fuori altre di notizie, ovviamente non posso fare il riassunto di tutte le migliaia di cose che succedono, però ovviamente, come dicevamo, la manovra del governo, varata dal governo, è al centro da qualche mese delle notizie della settimana. Scusate, e si aprono anche vari fronti, tra i tantissimi una buona notizia, io direi, per molti è che ritornano le feste laiche, che erano state cancellate, accorpate con la domenica, e per risparmiare, perché qualcuno voleva fare il ponte, quindi ritornano il 1 maggio, il 25 aprile, il 2 giugno e poi altre cose legate alla manovra, per esempio la questione della lotta all'evasione fiscale, che è una cosa che è montata soprattutto negli ultimi giorni. Addirittura poi, se c'è tempo, vorrei leggere a Tito Boeri e a voi un pezzo dell'editoriale di Massimo Franco sul Corriere di ieri, che diceva quasi sembrano misure di sinistra più che berlusconiane. E poi la pubblicazione, per esempio, dei redditi online. Si potrebbe dare in questa manovra, con un emendamento, la facoltà ai comuni di pubblicare online i redditi dei residenti. Poi vedremo anche su Facebook come hanno risposto ascoltatrici e ascoltatori a una possibilità del genere. Poi c'è il caso Tarantini, prosegue questa inchiesta sull'imprenditore barese Tarantini, che avrebbe fornito prostitute per le feste del Presidente del Consiglio. Però il Presidente del Consiglio in questa inchiesta non è indagato, è una vittima, perché avrebbe subito un'estorsione da 500.000 euro più tutta una serie di altri soldi da Tarantini, dalla moglie e dal direttore dell'Avanti Lavitola, anche se Berlusconi dice in realtà io ho dato i soldi a una famiglia che aveva bisogno, che era in miseria, anche se pare che i Tarantini facessero una vita un po' di lusso. Poi anche la vicenda Penati prosegue con la questione delle tangenti a Sesto San Giovanni. Profumo, abbiamo detto, l'ex numero uno di Unicredit, che ha deciso di scendere o di salire, a seconda di come interpreta lui, e in politica. Renzi, anche sindaco di Firenze, ha svelato le sue carte dicendo voglio partecipare alle primarie del PD, e la Bindi dice ecco, adesso allora si dimostra per quello che è, vuole diventare Presidente del Consiglio, allora si dimetta dal PD, perché il nostro statuto prevede che il nostro candidato è il segretario, se lui vuole correre alle primarie si dimetta. Poi è sempre la questione della Libia, naturalmente, che procede, Gheddafi ancora non si trova. Per esempio, io direi di andare subito, Tito Boeri, al numero verde 800 24 00 24. C'è Franco da Milano, sentiamo già Franco da Milano che cosa ha da dirci. Subito. Pronto? Franco, eccoci, siamo pronto. Buongiorno. Buongiorno Franco. Buongiorno, buon pomeriggio. Grazie a te. A tutti. Volevo chiedere al professore se ha letto Financial Times la settimana scorsa. Mi pare che ci sia. Io ho sentito questa notizia a Radio Popolare. Già qua è un po' un macello, perché si sa l'impronta di questa radio. Ma comunque. Di questa o di Radio Popolare? Sì, sì. Di quale? Radio Popolare di Milano. Ah, sì. La dottoressa Biorelli, in una trasmissione sua sui libri, attraverso questa notizia, citata da Vladimir Jacquet, che deve essere un economista che io non conosco, non lo so. Jacquet non lo conosciamo, vediamo se lo conosce invece. Abbia velleità. Sì. Ma la notizia è di una gravità enorme, perché tre analisti americani o anglosassoni, sì, definibili così, tra cui questo Rubini, che mi sembra che sia quello che ha scoperto per primo che la crisi sarebbe stata grave e ha anticipato i tempi nel definirla, sì, e poi gli altri due, un Mainz, no, una serie di economisti, sì, no, che sono analisti per le maggiori banche statunitensi, hanno indipendentemente uno dall'altro scritto questi tre articoli, sì, nei quali poi alla fine si dice che molto ovviamente si sta avverando la previsione di Carlo Marx, che aveva appunto previsto che nel capitalismo era insita la sua autodistruzione. Io ho trasecolato un po', però adesso ho di fronte un grande economista, voglio sapere se c'è un fondo di verità, perché sennò qua il destino sarebbe segnato. Franco, vuoi sapere insomma se Carlo Marx è un po' un Nostradamus? Non ci sarò, ma insomma, se la cosa sta così, fra 30 anni qua salta il banco. Ti sta a cuore, anche se non ci saremo più. No, speriamo di esserci. Franco, sentiamo Tito Boeri, che dici, un Nostradamus Carlo Marx? A parte che ovviamente no, gli analisti possono fare delle previsioni, Carlo Marx è anche un filosofo, un politologo, quindi diciamo, un'idea del futuro poteva avercela, sbagliata o giusta, dice Franco? No, Marx non è poi così tanto conosciuto tra gli economisti moderni. Mi ricordo che il primo giorno del mio corso di dottorato a New York uno studente si è alzato e ha chiesto, siccome il docente aveva fatto riferimento a Marx, ha chiesto lo spelling di Marx, tanto non aveva mai sentito parlare veramente di lui. Ma non credo certo che Rubini, perché appunto Rubini è il modo con cui è stato chiamato una volta dal ministro. Forse evocando Houdini, forse un illusionista. Sì. Quindi credo che Nuria Rubini parlasse di una cosa che ha sostenuto più volte ultimamente, cioè che c'è un rischio di una nuova recessione negli Stati Uniti, il double dip, quindi dopo la crisi del 2008-2009 una nuova recessione, perché c'è un rallentamento negli Stati Uniti, i dati sul mercato del lavoro sono negativi, perché in Europa si stanno facendo delle politiche molto restrittive, fiscali molto restrittive, la politica monetaria non è sufficientemente, non contrasta abbastanza queste politiche fiscali molto restrittive, c'è una crisi del debito pesante, mercati che fanno pressioni, ecco, quindi ma secondo te c'è il rischio? È noto per essere molto pessimista normalmente, devo dire il rischio c'è sicuramente, perché anche gli ultimi dati che sono usciti ieri sul mercato del lavoro americano sono dei dati che ci dicono che per un paese come gli Stati Uniti avere un tasso di disoccupazione del 9%, mentre per paesi europei è fisiologico, con il sistema di protezione sociale che c'è negli Stati Uniti, una disoccupazione tra l'altro di lunga durata, perché sono persone che rimangono disoccupate per più di un anno, è un fatto davvero molto molto quindi grave. L'effetto domino, se vanno così gli Stati Uniti figuriamoci il resto, questa è un po' la conclusione banalmente. In questo momento l'unico paese che in qualche modo traina l'economia mondiale è la Cina. La Cina è certamente un paese relativamente piccolo ancora economicamente, però sta acquisendo sempre più peso ed è l'unica parte del mondo che cresce davvero a tassi sostenuti. Il problema è che la Cina tende abbastanza con la sua domanda a sostenere le economie asiatiche, per esempio la Sud Corea, cioè sono paesi verso cui si rivolge in gran parte preferibilmente la Cina. Cina, però certamente anche paesi come la Germania hanno grandemente beneficiato della domanda che viene. Tu dicevi la Cina che sta acquisendo sempre più peso, a proposito di acquisire, non so se hai sentito quella storia dell'imprenditore cinese che vuole comprare, acquisire un pezzo dell'Islanda, farci un resort, un campo da golf, dice che prima o poi anche un pezzo d'Italia qualche imprenditore cinese, qualcuno mi compro. Se avessimo più investitori stranieri, compresi i cinesi, da noi sarebbe una gran bella cosa. Ma saresti contento che si prendesse un pezzo di Italia? Non so, cioè, prendo Lazio e Campania. Non credo che Lazio sia in vendita, credo che però se avessimo dei capitali cinesi che arrivano in Italia, che investono, che creano dei posti di lavoro, credo che ne beneficeremo. È una cosa positiva. Riflessioni da Marte. Questa volta, osservando come sempre il globo terracqueo da quassù da Marte, viene da fare, manco a farlo apposta, una considerazione astrofisica. Si pensava che almeno il 95% dell'universo fosse fatto di materia oscura, estesa appunto un po' in tutto l'universo. Ebbene, in realtà, è una scoperta di quest'estate, la gran parte della materia oscura si apprende, si concentra tutta nella penisola italica. E il nocciolo duro di questa materia oscura

un ironico soft che fa sorridere, Banda. Ecco. Brava. Sì. E poi chissà perché non riprende quella bella tradizione che faceva la sera anni fa con Diario. Quel linguista. Diario. Diario da, che bella, con il professore dell'Accademia Crusca, il presidente. Insomma, bei tempi che insomma poi ritorneranno, si vedrà. Wanda, senti, ma ti stavo facendo questa domanda. Tu saresti favorevole alla pubblicazione da parte dei comuni dei redditi? No, residenti? Nella maniera più assoluta. Ma non perché io mi consideri una ricca ereditiera, assolutamente. Ma semplicemente perché questo potrebbe portare ad invidie, rancori. E poi, insomma, in Italia la criminalità è sempre ancora molto forte. E quindi dici, qualcuno potrebbe mettere gli occhi su qualche dichiarazione piuttosto corposa. Potrebbe pensare che quella ricchezza così esibita attraverso numeri e quant'altro, insomma, è invitante, potrebbe essere stimolante. Chiarissima, Wanda, anche tu sei stimolante. Chiedo a Tito Boeri, allora Tito, che ne pensi di questa, prima di tutto dell'idea del pool? Tu faresti parte di questo pool, anche se gli economisti, diciamo, soprattutto quelli internazionali, hanno ricevuto commenti non molto lusinghieri negli ultimi tempi, da quando è scoppiata la crisi internazionale nel 2008, dicevano gli economisti, gli analisti, dove erano, dove prevedevano le cose, cosa pianificavano? Che dici, Tito? Noi come economisti, credo, diamo costantemente dei pareri, troviamo dei modi per in qualche modo fare delle proposte, molti di noi che seguono, perché ci sono anche economisti che fanno altre cose, ma quelli che sono più vicini alle vicende di politica economica, da tempo fanno proposte di varia natura. E per esempio di fronte a questa crisi più volte avevamo sottolineato, perché chiaramente non è che tutti la pensiamo allo stesso modo, ma in modo diverso, delle proposte molto concrete su questa manovra. Personalmente, ma anche sulla voce, tantissime proposte sono state fatte, quindi purtroppo la classe politica, chi è al governo, tende a non ascoltare, a prendere sul serio queste proposte. Certamente qualche volta possono essere sbagliate, altre volte però probabilmente se ascoltassero di più quello che noi proponiamo, quello che noi diciamo, e soprattutto anche analisi che si basano su esperienze di altri paesi, probabilmente certi errori verrebbero evitati. Senti, Tito, però senza fare proprio... pensiamo a questa vicenda della pubblicazione online dei redditi. Che pensi? Ci sono degli studi anche fatti in altri paesi in cui si è guardato che cosa succede, come cambiano i comportamenti quando tu riveli il fatto che altre persone, per esempio, stanno evadendo il fisco. E quello che avviene è che spesso succede esattamente l'opposto di quello che credo vorrebbe fare questa misura, cioè quella di ridurre l'evasione fiscale. Quello che succede è che la gente, siccome sente che altre persone stanno evadendo, probabilmente dichiarano dei redditi inferiori a quelli che per loro sembra percepire. Lo vogliono fare anche loro. No? Esattamente, si sentono in qualche modo nella condizione di poter anche loro evadere il fisco. Quindi un parere L'unica negativo. L'unica cosa che serve davvero, che sembra servire alla luce di questa letteratura, di questi studi, di queste esperienze in altri paesi, è quello che viene chiamato name shame, cioè quando si scopre un evasore, il nome dell'evasore deve essere reso pubblico. Sanzione sociale è una vergogna. Ecco, questa idea della sanzione sociale è molto importante. Con la usiamo pochissimo, ma la ragione vera per cui la usiamo pochissimo è che dai vertici delle nostre istituzioni, le persone che commettono degli errori, che fanno degli illeciti, che si sono resi protagonisti di vicende poco belle, sono i primi che non pagano lo scotto di queste cose, che non credo si allontanano. Che sia innegabile questo. Purtroppo abbiamo tanti esempi costanti. Quindi fin quando non avremo una sanzione sociale forte sui comportamenti illegali a tutti i livelli, e continueremo a tollerarli dai livelli più alti delle nostre istituzioni, della nostra classe politica, è molto difficile che questo possa funzionare. Però questo sarebbe un modo probabilmente efficace. Le altre cose da fare sulla lotta all'evasione sono le cose che continuiamo a non fare. Bisognerebbe, lo scrivono molto bene oggi Guido Tabellini ed Angelo Provasoli sul Sole 24 Ore, seguire i patrimoni, raccogliere informazioni, si possono avere sui patrimoni, chiaramente al di sopra di un certo livello, e comparare le variazioni nei patrimoni delle persone con quello che loro dichiarano al fisco. Questo è un modo molto efficace per riuscire a scovare gli evasori, perché chiaramente quando vedi delle discrepanze molto forti tra come cambia la ricchezza delle persone e quanto queste persone hanno dichiarato il fisco, ecco lì probabilmente c'è qualcosa che anche perché l'Italia non funziona, bisogna andare più a fondo. Leggevo che forse il primo al mondo come evasione. Intanto vi do una notizia, anche questa di sport, dell'ultima ora, proprio di pochi secondi fa: lo sprinter giamaicano Bolt ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri piani ai mondiali di atletica leggera in Sud Corea, il tempo di 19:40, giusto? Sì, mi sembra il tempo giusto. E quindi insomma aveva fatto un po' una figura giorni fa, non mi ricordo bene dove, con una falsa partenza, ma insomma poi la classe si vede. E ritornerei però sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, ricordatevi che c'è, dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Molti ascoltatori e ascoltatrici si sono espressi su questa questione della possibile pubblicazione appunto dei redditi online. William scrive: è paradossale che la lotta all'evasione sia delegata a cittadini delatori, anzi userei il termine spioni. Sensibilizziamo i cittadini a richiedere piuttosto fatture o scontrini fiscali invece di trasformarli in guardoni di dichiarazioni dei redditi. Poi Michele dice: semplicemente ridicoli, più in basso di così non si può. Quindi un parere negativo sulla possibilità. Lorenzo scrive: la pubblicazione indiscriminata di dati sensibili come la propria dichiarazione dei redditi potrebbe alimentare qualche insano, addirittura illecito se non proprio delinquenziale, comportamento di qualcuno, come indicava Wanda prima, l'ascoltatrice. Cosa scrive Giulia? Io non avrei problemi, nel senso che per lei andrebbe benissimo. Lorenzo invece dice: sarebbe comunque un grosso segno di civiltà se potesse accadere, quindi pareri differenti come sentite. Gioacchino, sempre sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, scrive: bene, e una volta che i redditi vengono affissi cosa succede? Forse non è noto a tutti chi siano piccoli e grandi evasori? Si sa chi sono, vengono persino perseguiti ma non pagano mai il dovuto. E poi diciamola tutta, l'evasione suscita sempre simpatia, non è nelle corde degli italiani il senso civile di pagare il dovuto per il bene collettivo, come diceva un po' prima Tito Boeri. Stefano scrive: io potrei anche essere favorevole, non dimentichiamo però che una strada simile era già stata intrapresa dall'allora ministro Visco. Ce la faranno o cambieranno nuovamente le carte in tavola? Angelo scrive: siamo il sesto paese come presenza di macchine di lusso, le barche, le ville intestate a società e prestanome non si contano. Lo Stato faccia il suo dovere, ma i discorsi fumosi degli attuali giocolieri dimostrano che non hanno nessuna voglia di fare sul serio. E poi Enrica dice: no, assolutamente sono contraria, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe avere gli strumenti per fare gli accertamenti. Cosa dice il garante della privacy? Si chiede Enrica, mentre noi rimaniamo con un punto interrogativo. Tra poco al numero verde 800 24 00 24 ci sono Berry da Salerno, Renzo da Vigevano, le altre ascoltatrici e ascoltatori raccolti con alacre attività dal nostro Giorgio De Luca ai telefoni. Caro Berry, eccoci qua. Buongiorno Roberta, sono tuo fan. Grazie, sei molto vorrei generoso. Dire, sì. La mia premessa è questa: ho sentito in questa manovra tanti discorsi sulla lotta all'invasione, contributi di solidarietà, cioè aumento dell'entrata. Sì. Ma quello che vorrei sapere anche da Tito Boero, che è economista serio, è perché non ci sono interventi sulla spesa corrente, bloccaggio o diminuzione della spesa corrente, che è in aumento, è in crescita la spesa corrente. Lì io penso che dovrebbe intervenire, ma subito, con i blocchi completamente di dismissione delle auto blu, che è un peso enorme dello Stato e tutto l'apparato politico. Quindi è questo che vorrei sentire, interventi sulla spesa corrente. Berry, tu dove sei nato? Sono nato in Brasile. In Brasile, da quanti anni sei qua in Italia? Sono in Italia da 14 anni, sono sposato una italiana. 14 anni sono tanti. Senti, ti sembra questo... Ho quattro figli in Italia. Ti sento partecipe però della cosa pubblica italiana. Sì, della perché politica. leggo molti giornali, leggo quando ci sono interventi di Tito Boero, ammiro. Avrei messo Mario Monti come primo ministro e Tito Boeri come ministro dell'economia. Oh, una candidatura ufficiale. Allora, quindi, vediamo come va a finire. Berry, ti ringrazio intanto, salutami in Salerno, che è una bellissima città. E Tito, quindi hai avuto questa candidatura ufficiale, poi vediamo insomma come va a finire. Ti interesserebbe diventare ministro dell'economia? Innanzitutto ringrazio l'ascoltatore per la stima, ma penso che quello che lui dice è davvero importante, cioè questo è il problema numero uno, quello di riuscire a contenere e a tagliare la spesa corrente. Questo dovrebbe essere l'imperativo, perché io sono convinto anche che se davvero affrontassimo il problema, noi potremmo permetterci anche di fare una manovra un pochettino più piccola di quella che stiamo mettendo in atto, perché davvero l'esame, la prova che ci viene richiesta oggi da chi vuole acquistare i nostri titoli di Stato è quella: dovete dimostrare di essere capaci finalmente di tagliare la spesa corrente. Tito, scusami se ti interrompo, ma la spesa corrente sono, che so, le tredicesime dei dipendenti pubblici, che però è stata ripristinata, sono i costi della politica, cosa sono? Sono tante cose, ci arrivo in un secondo. Lasciami dire solo questo, l'impressione che si ha guardando all'Italia è quella di un paese che è malato, ha un'emorragia, cioè non riesce a tenere, a ridurre questo debito pubblico così così forte, e c'è uno Stato, un governo che interviene continuamente proponendo delle trasfusioni. Queste trasfusioni sono i prelievi dal sangue degli italiani, le tasse, e a questo malato continuiamo a iniettare, a fare delle iniezioni, in qualche modo a dare del sangue nuovo, però senza curare la malattia che è questa emorragia. Quindi fin quando non riusciremo a tamponare, a bloccarla, a tagliare la spesa corrente, non usciremo da questo problema. Cos'è la spesa corrente? Beh, la spesa corrente, il 40% della spesa corrente disponibile, quella non per interessi sul debito, perché quella, come abbiamo visto in questi mesi, purtroppo non è sotto il nostro controllo. Ci sono gente che decide di comprare o non comprare i nostri titoli di Stato, e questo fa cambiare, certamente con comportamenti virtuosi possiamo cercare di abbassare la spesa per interessi, però non è qualcosa che noi possiamo immediatamente controllare. Quindi il 40% della spesa corrente è rappresentato dalla spesa previdenziale. Poi abbiamo una componente importante che è legata all'amministrazione pubblica, e qui ci sono dentro questo anche i costi famosi della politica. Ecco, su quello a mio giudizio bisognerebbe partire subito, perché è una questione anche di dare il buon esempio e davvero di smetterla di fare questi annunci che poi non portano a niente. Non c'è nessuna ragione per cui non si possa domani chiudere tutti i consigli provinciali. Non c'è bisogno di intervenire sulla Costituzione. Gli organi politici possono essere sciolti domani e sostituiti da delle assemblee dei sindaci, dei comuni che fanno parte di quella. Su questo si risparmierebbero i compensi. Non si capisce bene con queste province. Questo si potrebbe fare subito. Seconda cosa che si può fare sono gli accorpamenti dei comuni. Abbiamo tantissimi comuni, abbiamo dei comuni con 33 abitanti, cioè un consiglio di classe. Tenere in piedi delle strutture, avere degli edifici, degli affitti che si pagano, poi ci sono le rappresentanze coinvolte per 33 elettori, che poi in 33 è difficile trovare una persona che ha le capacità amministrative di un sindaco, quindi davvero non ha senso. Accorpamento dei comuni, anche questa è una misura che ogni tanto viene annunciata, poi sistematicamente viene abolita. Parlamentari, abbiamo un rapporto parlamentari elettori superiore a qualsiasi altra democrazia. Le democrazie consolidate hanno un rapporto molto più basso, noi potremmo ridurre di un terzo, a un terzo del numero attuale, potremmo avere 300 tra deputati e senatori e avremmo lo stesso rapporto in media delle altre democrazie consolidate. Non c'è bisogno di avere così tanti parlamentari, e avendo meno parlamentari li potremmo anche scegliere meglio, quindi risparmieremmo e al tempo stesso faremo anche una selezione migliore della nostra classe politica. Quindi sono tagli ai costi che si possono fare. Poi ce ne sono tanti altri. Ne abbiamo parlato da anni. Sulla voce info, se volete poi documentarvi ulteriormente, avere delle idee su possibili suggerimenti sui quali potete essere d'accordo o meno, però con delle proposte concrete. Renzo da Vigevano. Buongiorno. Buongiorno Renzo. Niente, io sono praticamente contrario, in linea di massima, a mettere online i redditi. Sì. Questo paese, purtroppo, forse è la cosa giusta, una cosa da provare, perché comunque abbiamo un'evasione incredibile e non c'è nessuno che è riuscito a fare qualcosa fino a questo momento, e forse facciamo anche questo tentativo, l'ha provate tante, anche se in linea di massima, cioè sono contrario come principio, ecco. Contrario come principio, ma a questo punto, siccome... Però dice mali estremi, estremi rimedi, questo dici Renzo. Senti, ma se tu saresti favorevole al carcere per i grandi evasori, quelli sopra i 3 milioni di euro di evasione? Ma sì, ma anche solo un milione, però è una questione culturale. Cioè, l'evasore esiste perché c'è chi si fa fare i lavori senza fattura. Se quello di giancare un appartamento, chiamo quello che costa meno. Sì, anche se non è soltanto quella l'evasione, l'evasione è anche di chi c'ha, diciamo, patrimoni straordinari, ecco, vive nel lusso. Renzo, ti ringrazio. E c'è Bruno dalla provincia di Cuneo, perdonami perché sennò poi mi dicono che faccio passare pochi ascoltatori dai centinaia e migliaia che chiamano. 800 24 00 24. Bruno. Grazie, buongiorno. Grazie a te, buongiorno. Voglio dare anche la mia testimonianza, certo, a riferimento alla discussione in atto. Io sarei più che d'accordo a fare trasparenza sull'albo e su via internet, comunicare tutti i redditi, però prima di fare tutto ciò sarei anche d'accordo a proporre a tutti i comuni, le province, le regioni e ogni ministero, compresi i sindacati, compresi le cooperative, tutti quelli che non pubblicano il bilancio, di pubblicare il proprio bilancio pubblico, che vengono firmati gli amministratori responsabili di questo bilancio, e poi leggendo i bilanci dei vari comuni, province, regioni o ministeri, si vadano a correggere tutte quelle voci che sono fuori di controllo, che non portano reddito, portano solo spesa o approfittamenti. Poi, allora, fatto questo, è giustissimo anche analizzare poi tutti anche i redditi delle persone. Tutto questo non capisco come mai ad oggi non c'è questa trasparenza da parte di chi ci governa, e dovrebbero avere poi delle verifiche fiscali anche loro, come qualunque azienda, da parte della finanza, i controlli della gestione del pubblico. Perché tutto questo non avviene? Bruno, ci lasciamo con questa domanda. So che stai guidando tu, stai guidando, la navigatrice o la tua moglie, la tua compagna? Sì, la navigatrice. Che blatera sotto. Anch'io ogni volta che devo parlare con qualcuno al telefono c'è la navigatrice che si intromette, diciamo, nei nostri discorsi. Grazie, caro Bruno. Ma Tito Boeri, tu cosa ne pensi, per esempio, della misura possibile che pare introdotta ultimamente per la lotta all'evasione del carcere per i grandi evasori? Io credo che si fanno tante polemiche e tante discussioni sul niente. Chiediamo all'Agenzia delle Entrate quante sono le persone che in Italia sono oggetto di procedure, di contenziosi per aver evaso per più di 3 milioni il fisco. Io credo che li conteremo sulle dita di una mano. Perché è difficile scoprirli. Sono delle misure demagogiche, delle cose che vengono dette perché si deve dire per forza di cosa qualcosa, ma il grosso dell'evasione non è lì, insomma, certamente pensiamoci e parliamone pure, ma non credo che ci valga la pena di dedicarci tante attenzioni. Non è un deterrente, perché di persone che evadono, che hanno dei patrimoni, dei redditi di quelle entità, in Italia ce ne sono relativamente poche. Quindi sarebbero a colpire pochi, dici? Ma non credo che serva assolutamente a nulla una misura di questo tipo. Ripeto, le cose che vanno fatte sull'evasione sono quelle, e sono cose che si possono fare oggi, perché i dati ci sono, le autorità hanno in mano i dati, diverse fonti statistiche, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, si mettono insieme le loro banche dati, abbiamo delle rilevazioni sui patrimoni degli italiani, diciamo agli italiani che devono dichiarare nella dichiarazione dei redditi i loro patrimoni, chiaramente al di sopra di un certo importo, devono dichiararli sistematicamente, diamo la possibilità chiaramente di monitorare l'evoluzione di questi patrimoni, compariamo l'evoluzione di questi patrimoni con dei dichiarazioni dei redditi. Questo è un modo molto efficace per riuscire a scovare moltissimi evasori. Se si volesse farlo, era la strada che poteva essere perseguita da molto tempo. Non è mai troppo tardi, e invece di parlare di misure che sono del tutto inefficaci, cerchiamo di fare davvero le cose serie. Benito da Rieti. Pronto Benito? No, Franco sono io, non Benito. Franco, no, chiamo Benito, sì. Aspetta un secondo, Franco. Ti chiami Benito? Grazie. No, Benito, sì. Buonasera. Buonasera. Un saluto, Franco, a questo una crisi d'identità. Io moltissimo. Non ho capito, Benito. Benito, scusa, non ti ho capito. Prego. Prego, che dici? Vorrei innanzitutto un saluto al professor Boeri, che stimo moltissimo. Vorrei fare una domanda al professor Boeri. Sì. Ci spieghi perché il presidente della Federal Reserve, Greenspan, nel 1995 prendeva di stipendio $136,000 e Fazio $650,000. Stiamo parlando degli ex governatori, perché anche Greenspan, adesso c'è Bernanke. E si verifica anche oggi, perché Draghi prende $745,000 euro, e il governatore della Federal Reserve prende un quarto della banca centrale americana Bernanke. Certo, grazie Benito, dai numeri, in senso così di documentazione, che dici tu, Tito, come mai questa differenza, se è effettiva? Io non conosco i redditi. Sono d'accordo sul fatto che i compensi delle massime autorità, delle cariche della Banca d'Italia oggi sono superiori a quelle degli altri banche centrali. Io credo che anche su questo piano noi dovremmo allinearci alla situazione che prevale in Europa e negli altri paesi, come peraltro quei dobbiamo assolutamente anche, fare no? con i nostri parlamentari, che sono pagati 4 volte non solo di più. Sono molto di più in rapporto al numero degli elettori, ma hanno dei compensi molto elevati. I parlamentari, poi c'è un altro aspetto importante, i parlamentari possono unire al compenso che hanno come parlamentari anche dei compensi da attività extraparlamentari, certo. Tant'è che moltissimi parlamentari sono pochissimo presenti perché continuano a svolgere la loro professione in privato, quindi un'altra cosa che bisognerebbe assolutamente fare è evitare e proibire il cumulo dei redditi da parlamentare con quello da attività extraparlamentari. È buffo, Tito, no? Perché non siamo uno dei paesi più ricchi del mondo, eppure siamo molto generosi, diciamo, con le cariche, diciamo, di un certo. Guardi, i redditi dei parlamentari italiani sono cresciuti da 48 al 2008 del 1100% in termini reali, con un tasso di crescita annuale attorno al 10%, mentre il reddito medio degli italiani cresceva mediamente, perché ci sono stati periodi del boom economico, del 3%. Quindi, i parlamentari si sono concessi incrementi 3 volte superiori a quelli della media degli italiani. Sì. Io credo che un'altra cosa che bisognerebbe fare nel poi rivedere i compensi in futuro sarebbe quello di legare l'andamento del reddito del parlamentare all'andamento del reddito degli italiani, in modo tale che anche i parlamentari abbiano gli incentivi giusti a pensare davvero alla crescita del nostro paese, dato che mi sembra che sia un tema che sia dai più ignorato, dato che in Parlamento spesso si parla di tutto tranne che dei problemi della crescita. E mi sembra invece una proposta e un tema che potrebbe diventare molto popolare, questo di Tito Boeri. Mentre mi ripiglio da questo attacco di bile, potremmo andare molto velocemente verso un appuntamento che, diciamo, è allo scadere, sapete, come in tutte le migliori storie del mondo, non tutte per fortuna, ma insomma a volte così ci si lascia senza rancore. Ma insomma, Stefano Andreoli, l'inventore buongiorno, di Spinoza.it. Buongiorno carissimo, siamo veramente alla fine, avevo salutato la settimana scorsa ma era una finta, come spesso si fa, era una prova per dire vediamo se qualcuno piange, se qualcuno ti insegue. Non sei sentito nessuno, devo saluti dire strumentali certamente. Non so se sai del mio passaggio a Radio Maria, che verrà formalizzato a breve. Aspetta, quello è un successo, non c'è un punto d'Italia dove non si sente Radio Maria. Cioè, quindi infatti, mi sembra che hai fatto un passaggio, molto spesso ascolti le partite, c'è il rigore, ma Radio Maria sopravanza la cronaca, no, sono cose e ti dice qualcosa di belle, più utile, ecco. Però sì, lasciami 30 secondi per ringraziarti del tempo e dello spazio che hai dedicato. Solo 30 a secondi per ringraziarmi, alla satira, poco, e alle battute che spero abbiano allietato alcuni dei tuoi tanti radioascoltatori, quindi grazie mille, spero che ci si ritroverà in qualche punto del tempo e dello spazio. Ma chissà, ora, bando magari un'altra vita. Io farei un piccolo best, diciamo, dell'ultimo anno, visto che appunto si tratta di un arrivederci, certamente, visto che comunque non sta succedendo niente di rilevante nel mondo, per cui non c'è nulla, assolutamente nulla. Necessità di parlare di cose attuali, volevo parlare un po' di tutto quello che è capitato, diciamo così, nell'ultimo anno. Sì. Polemiche per il baciamano di Berlusconi a Gheddafi. Lo ricorderete di qualche mese fa. Sì, è che Berlusconi quando vede una gonna non capisce niente, quindi è per questo che probabilmente il baciamano lo giustifica a posteriori, insomma. Sì. Gli è scattato. Altra notizia importante di quest'anno, che ora torna prepotentemente diciamo in prima pagina, WikiLeaks. Assange ha diffuso tutti i anche i numeri cabo, del Papa, vedevo, sì, tutti i documenti, esatto. Nelle rivelazioni di WikiLeaks non c'è neanche una parola sul PD. Questo dimostra che sono sconosciuto proprio. Ah. Questo dimostra che sono autentiche, perché assolutamente è una prova della loro veridicità. Episodio di qualche mese fa a Gemonio. Due bombe carta esplodono davanti alla sede della Lega Nord. Gravi danni al ponte levatoio. Chiaramente c'è stato qualche danno appunto per queste bombe. C'è ancora? Ci sono sempre, ti sto ascoltando con religioso silenzio. Ti, hai parlato di Radio Maria, religioso silenzio ti sto ascoltando. Non ti, è, sì. Che non ti, è che non ti sento più, è che non ti sento più. E non quindi, mi senti più perché l'amore è finito. Problemi sì, al telefono, sì. Comunque Pedretti, ti lascio con un paio di battute. Questa è la morte del cavalier Foppa Pedretti. È morto Foppa Pedretti, già allestita la cameretta ardente. Ecco questa notizia di qualche mese fa. E soprattutto ti lascio con una statistica, ultima battuta, che gli sembra giusto dedicare al protagonista, diciamo, delle cronache, quello che di recente ha detto: me ne vado da questo paese di... Ah, non sei tu, no? Tu te ne vai da... Sì, no, non sono io. E anche la merda, diciamo, ha detto: me ne vado da questo paese di Berlusconi. E in entrambi i casi avremo a guadagnarci. Molto bene. Ti saluterei così. Grazie, grazie, Andreoli. A presto. Tu non hai da guadagnarci a lasciarmi così, ma ci ritroveremo. Perché gli amori a volte fanno dei grandi giri e poi ritornano. Grazie, nostro Stefano Andreoli. Più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Eh sì, a volte neanche le intere sono un granché. Insomma, dipende dai punti di vista. Ma questa è una canzone, diciamo, che mi hanno dedicato gli Stadio. Poi glielo chiediamo se effettivamente è così la prossima settimana. E strana coincidenza, devo dire. Però io adesso, mentre attendiamo appunto di sentirli e abbiamo gli ultimi minuti per commentare le notizie della settimana, andrei al nostro appuntamento, che invece rimane con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale, cara Valeria, sottoporrei il termine piuttosto caldo, piuttosto sensibile in questi giorni: pensioni. Valeria, pensioni. Sì, pensioni. Allora, come al solito, quasi tutte le volte, dobbiamo risalire a una parola latina. La parola latina era pensione, che voleva dire originariamente pesatura, e poi è passata al significato di pagamento, e da questo significato è nato nella nostra lingua la parola, il significato che ci sta a cuore, di cui si parla tanto in questo periodo, e quindi la somma versata da un ente previdenziale a un lavoratore che ne abbia maturato il diritto. Poi ne sono stati aggiunti tanti altri termini, penso solo alle pensioni baby, che si sono diffuse, no? E anche l'espressione negli anni Ottanta. E poi naturalmente c'è anche l'altro significato che però meno ci interessa, e cioè quello di pensione come fornitura di vitto, alloggio, e quindi pensione anche Margherita, tempo, tipo. Ecco, sì, che prende lo stesso nome. Ma per tornare alla parola che dicevo, ci sta a cuore perché determina tante ansie in chi non sa ancora se la pensione riuscirà mai a prenderla, concludo come sempre con almeno una nota positiva. La prima attestazione della parola pensione nella lingua italiana risale, con quel significato che sappiamo, quindi di pagamento di una somma a qualcuno che ne abbia diritto, risale a Leonardo da Vinci, e forse almeno questo ci può confortare. Chissà che è andato in pensione Leonardo da Vinci, grazie alla nostra Valeria Della Valle. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao Valeria. E mentre vi ricordo che potete poi riascoltare la puntata o sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, e potete continuare a fare i vostri commenti, oppure sul sito di radio24.it. E mentre tra pochissimo c'è Franco da Torino all'800 24 00 24, ma proprio in sintesi, in pochi secondi, chiederò poi a Tito Boeri di pensare nel frattempo se preferisce chiudere su la candidatura di Profumo, la candidatura di Renzi, o su quello schiaffo dato da un imprenditore italiano in Svezia che si è fatto 3 giorni di galera, uno schiaffo a un ragazzino, a suo figlio. Franco da Torino, mi dici in 22 secondi, perdonami, dulcis in fundo. Ascolti, io volevo un po' parlare sulle pensioni. Un po' parlare pochino, però, un pochino parlare. Ma per un motivo solo, perché vedo un accanimento proprio incredibile da parte dei politici, oppure dei media. Cioè, io dico, ma la gente qua ha mai provato a lavorare in fabbrica a 40 anni? Bravo, questa è un'ottima domanda, caro Franco. Chiuderei proprio su questa domanda. E Tito, tu cosa scegli allora? Di parlare della candidatura di Profumo, candidatura di Renzi, o di questo padre che in Svezia si è fatto 3 giorni di galera ed aspetta il processo o l'udienza per il 6 settembre perché ha schiaffeggiato suo figlio di 12 anni davanti a un ristorante? In realtà non credo di aver molto da dire su nessuna di queste cose. Chi vuole scendere in politica lo faccia. Più competizione c'è nella classe politica, meglio è. Bisogna sapere che è un mestiere diverso, è un mestiere su cui bisogna impegnarsi. Sul padre che ha schiaffeggiato in pubblico, devo dire, sono cose brutte da vedere, sono cose che davvero fanno male, in un certo senso, soprattutto in un luogo pubblico, che si unisce al danno fisico anche l'umiliazione per chi la subisce. Devo dire, in Svezia poi c'è un atteggiamento, un rispetto della persona molto superiore a quello che abbiamo noi. Detto questo, però francamente il fatto di mettere in carcere qualcuno mi sembra una punizione eccessiva. Mi piacerebbe vedere anche in Italia però dei poliziotti che quando vedono delle scene di questo tipo, anche all'interno di una famiglia, cioè un padre violento quasi con i propri figli, eccetera, la moglie, intervengano i poliziotti per redarguire i genitori e per evitare che queste cose... La vedo molto dura, finché non ci scappa il morto in genere in Italia. Cioè, grazie Tito Boeri, Tito a presto, buona continuazione, se diventi ministro faccelo sapere, va bene? Grazie. Ciao Tito Boeri, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.